La teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 14 febbraio 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Le informazioni per i contatti 333 180 94 94 per inviare un sms e cacciafotone@radiocittafujiko.it per inviare una mail. E oggi parleremo di un argomento storico. Parleremo di scienza e Islam. E per parlarne abbiamo al telefono il professor Alberto Ventura, docente di storia dei paesi islamici presso l'Università della Calabria. Buongiorno dottor Ventura. Buongiorno. Cominciamo a descrivere un attimo la puntata. Io voglio fare una domanda sola, che è quella che dovrebbe introdurre la trasmissione. Qual è il più grosso patrimonio che la tradizione della scienza islamica ci ha lasciato? È immenso, è talmente grande che è difficile selezionarne uno in particolare. Le scoperte, le investigazioni, le ricerche, le riflessioni che la scienza islamica ci ha dato sono talmente tante. Basti dire, forse così sinteticamente, che molti interpreti oggi ritengono che alcuni scienziati musulmani siano stati gli anticipatori delle scoperte scientifiche più moderne e quindi che abbiano intravisto, senza poi magari poterle portare a termine, le grandi svolte che porteranno alla scienza contemporanea, soprattutto la fisica e l'astronomia. Professor Ventura, vedremo nel corso della trasmissione che il patrimonio veramente è assolutamente infinito, come diceva lei, e vedremo che ci sono molti nomi di scienziati che sono stati assolutamente dimenticati, escluso per Al-Khwarizmi, che è stato preso per dare il nome all'algoritmo, quindi uno dei principi basilari per l'algebra moderna. Ci sentiamo un pochino di musica, poi torniamo in studio e una volta tornati in studio cominceremo veramente con la trasmissione. Bentornati a Caccia al Fotone. Quest'oggi parleremo di scienza e Islam. Ancora in collegamento il professor Alberto Ventura, docente di storia dei paesi islamici presso l'Università della Calabria. Professor Ventura, cominciamo con la prima domanda. A quando facciamo risalire l'inizio della tradizione della scienza islamica? Quindi a che periodo ci stiamo riferendo? Al periodo espansivo della civiltà musulmana. Ricordiamo agli ascoltatori che la civiltà musulmana nasce nel VII secolo d.C., ma ben presto esce dai confini dell'Arabia, che era stata la sua culla, e comincia a invadere terre vicine, sia Oriente che Occidente. Quindi già nell'VIII secolo noi neppure 100 anni dopo la nascita dell'Islam, vediamo che gli stati islamici che si vanno affermando cominciano a favorire lo sviluppo della cultura e delle scienze. Il processo fiorirà per tutto l'VIII secolo e soprattutto per tutto il IX secolo, che sarà il grande secolo della elaborazione, della sistematizzazione di questo patrimonio scientifico, per arrivare poi fino al X. Lì finisce il periodo elaborativo, formativo, e comincerà poi un altro periodo che sarà quello della riflessione ulteriore in vari luoghi del mondo musulmano, dell'impero islamico che ormai abbracciava quasi tutti i continenti del mondo, e in quella maniera poi questa scienza si diffonderà e avrà delle ricadute importanti anche in altre civiltà, soprattutto in quella europea. Abbiamo un luogo storico dove fondamentalmente la scienza si è prodotta, si è sistemata, che è la cosiddetta casa della conoscenza. E a quando facciamo risalire la nascita della casa della conoscenza e chi l'ha voluta questa casa della conoscenza? La casa della conoscenza, o meglio sarebbe da tradurre con casa della sapienza, è un'istituzione pubblica, una sorta di università ante litteram, che venne fatta costruire alla metà del IX secolo da un califfo di Baghdad, Al-Ma'mun si chiamava questo califfo, che è rimasto celebre nella storia per essere stato uno dei più grandi mecenati della cultura e del sapere. Si dice che per esempio quando visitò l'Egitto fece aprire lui la piramide, la grande piramide di Cheope, per vedere cosa vi fosse all'interno, a testimonianza del fatto che era animato sempre da questa curiosità investigativa. Naturalmente non era solo un fatto di curiosità, l'impero islamico si era ormai enormemente allargato, il potere e quindi i califfi, non solo Al-Ma'mun ma Al-Ma'mun in particolare, volevano dotare questa nuova civiltà anche di una cultura molto solida, e questa cultura solida rappresentava una spesa, un costo molto elevato. Bisognava cioè investire in cultura con degli incentivi di Stato particolarmente rilevanti, e uno degli esempi attraverso i quali questo intervento dello Stato si può vedere è stata proprio la costituzione della Casa della Sapienza, ma non fu l'unica istituzione. Grandi osservatori astronomici, per esempio, furono costruiti un po' in tutte le regioni dell'impero in quel periodo, proprio perché si considerava che la crescita dell'astronomia avrebbe rappresentato un importante elemento di appeal di questa nuova civiltà che si stava affermando a livello mondiale. E in effetti saranno proprio questi i grandi temi di attrazione delle altre civiltà nei confronti dell'Islam in quel periodo: la grande fioritura scientifica, l'astronomia, la medicina, la filosofia. Non dimentichiamo che allora poi tutte queste cose erano legate, il filosofo era anche scienziato e viceversa. Senta, adesso stupore che qua in Occidente, quando per esempio Galileo 400 anni fa, e quest'anno è l'anno internazionale dell'astronomia, capì che non era la Terra al centro dell'universo ma era il Sole al centro dell'universo, si scontrò nettamente con la cultura religiosa. Ora, in un mondo così fortemente religioso, la scienza non entra in contrasto con la religione, come mai? Definire l'Islam un mondo fortemente religioso è senz'altro vero, però è sbagliato intenderlo nel senso di un mondo retrivo, chiuso cioè ad altre esperienze. Nel passato, fino a epoche del resto relativamente recenti, il mondo islamico invece ha adottato sempre un criterio di flessibilità e di duttilità. Quindi il dibattito tra fede e ragione, per esempio, che nel mondo islamico antico è stato molto forte, ha visto prevalere nel mondo islamico l'orientamento che voleva conciliare le due cose. Quindi non solo scienziati e filosofi, ma anche teologi, giuristi, esperti di cose religiose, hanno favorito questo incontro tra, diciamo, la cultura, l'immissione per esempio del patrimonio della cultura greca, che era un patrimonio estraneo all'Islam originario ovviamente, e che un rigorista avrebbe potuto considerare minaccioso dell'integrità della religione, e invece la società musulmana, sia intellettuale ma anche economica, produttiva, politica dell'epoca, vide in questo connubio tra la fede e la ragione un elemento vincente. Ora, questo naturalmente è stato l'arma di vantaggio del mondo islamico in quel periodo. Alla lunga si è tramutato però in uno svantaggio, perché proprio perché non vi era conflittualità fra fede e ragione, la scienza non ha mai assunto uno statuto autonomo e indipendente dalle altre discipline del sapere. e come è noto, insomma, nel Medioevo, non solo in quello islamico, il filosofo, lo abbiamo ricordato prima, era anche medico, Avicenna, che è stato un grande filosofo dell'Islam, ha scritto libri di medicina, Averroè, un altro grande filosofo aristotelico, era un medico anche lui, insomma, la scienza in quanto tale, non essendo entrata in conflitto con l'istituzione religiosa, è rimasta un capitolo di un sapere più vasto. Quindi il conflitto che invece c'è stato in Europa tra scienza e fede, tra lo scienziato, il sapere scientifico e la religione cattolica, ha portato lo scienziato a una migliore definizione di sé, migliore autoconsapevolezza e soprattutto ha fatto emergere la scienza come una disciplina completamente autonoma e le ha permesso poi quegli sviluppi che invece nel mondo islamico non ci sono stati. E abbiamo parlato del fatto che all'interno di questa Casa della Sapienza fondamentalmente è stata sistematizzata tutta la cultura, tutta la scienza presente in quel periodo. Ma quali sono le radici della cultura, della scienza che sono state sistematizzate? Cioè, da dove viene tutto questo sapere? Dunque, questo sapere era un sapere del mondo antico, molto vasto, insomma non era soltanto quello greco, c'era soprattutto l'apporto indiano. Gli indiani avevano fatto scoperte astronomiche e matematiche molto avanzate per l'epoca rispetto a quello che succedeva dalle nostre parti nell'area mediterranea e poi c'era la grande tradizione dei babilonesi, che si era estinta naturalmente, la civiltà babilonese era scomparsa, però aveva lasciato molte tracce nell'area di insediamento che è quella della Mesopotamia, grosso modo l'attuale Iraq, dove questa tradizione scientifica era continuata. L'Islam si appropria di tutto questo, entra di prepotenza nella storia, si sostituisce alla civiltà ellenistica che l'aveva preceduta e volutamente, non casualmente, volutamente appunto con un progetto anche finanziato dallo Stato, raccoglie tutto questo sapere, lo traduce proprio letteralmente, prende i libri greci, indiani, siriaci e li mette in arabo. Crea così un corpus, il processo naturalmente è stato più pluridecennale, non è che questo corpus è uscito dall'oggi al domani, ha creato questo corpus scientifico di un sapere complessivo straordinariamente ricco, sul quale i pensatori musulmani hanno poi potuto lavorare, fare le loro correzioni, fare le loro riflessioni, aggiungere elementi, per poi ritrasmetterlo all'Occidente latino, che faticava a uscire dalla barbarie in quella stessa epoca, proprio quando la civiltà islamica era al suo apogeo, e l'Occidente latino ritradusse questo patrimonio dall'arabo in latino e se ne poteva avvantaggiare per la crescita culturale che conosciamo. Professor Ventura, sul discorso delle traduzioni ci lasciamo con un pezzo musicale, ritorneremo proprio su questo discorso perché le voglio chiedere un pochino di cose sul modo in cui sono state tradotte le opere e soprattutto chi ha tradotto queste opere. Bentornati a Caccia al Fotone. Oggi stiamo parlando di scienza e Islam. Professor Ventura, ci siamo lasciati col discorso delle traduzioni. Ora, le traduzioni nella Casa della Sapienza vengono fatte in maniera del tutto particolare perché ci sono più persone provenienti da culture differenti che traducono delle opere. Come mai vengono utilizzate persone di culture differenti, mentre per esempio in un mondo molto chiuso come il nostro, come il mondo occidentale, viene utilizzata solamente una cultura, che è la cultura cattolica? Ma è successo un fatto singolare che però si è riprodotto più volte, cioè la traduzione è un fenomeno complesso. Naturalmente allora non esistevano tutti gli strumenti di cui oggi disponiamo, vocabolari, una scienza filologica attrezzata, era molto complicato fare una traduzione da un testo greco in arabo, per esempio. E allora ecco che si riunivano delle persone in equip. C'era un elemento che in genere era un cristiano di religione, di confessione siriaca, che fungeva da tredinion tra le due culture. Perché? Perché il cristiano usava questa lingua rituale, che era la lingua siriaca, che era una lingua semitica come grammatica, quindi molto vicina all'arabo, ma al tempo stesso, essendo un cristiano, era molto vicino alla tradizione greca, conosceva in genere il greco molto bene e poteva fungere da ottimo anello di congiunzione. Allora, questo cristiano, o questi cristiani, non abbiamo poi i nomi dei traduttori, non sempre almeno, creavano un primo abbozzo di traduzione, cioè dicevano ad altre persone, in genere arabi, che cosa voleva dire quel testo. Quegli arabi poi lo mettevano in arabo un po' meglio e alla fine poi c'era sempre qualcuno che firmava la traduzione, che non era il vero traduttore come lo intendiamo noi, ma era colui che sistemava il prodotto finale, cioè sceglieva la terminologia tecnica definitiva, faceva dei controlli, insomma una specie di editore, diremmo noi, no? Questo processo, che era un processo di equip, è un laboratorio multiculturale, ovviamente, perché non si poteva fare altrimenti. Per comprendere le cose dell'altro, che siano il grande trattato scientifico o filosofico, ma anche le cose di ogni giorno, c'è sempre bisogno di un contatto, di una conoscenza molto diretta, e l'Islam è stato spesso un laboratorio multiculturale. La stessa cosa è avvenuta alcuni secoli dopo nel processo contrario, cioè quando questo patrimonio è stato ritrasmesso all'Occidente. In quel caso l'elemento di unione nella Spagna musulmana, che fu il centro più importante di traduzioni dall'arabo in latino questa volta, l'elemento, dicevo, di congiunzione fu rappresentato dagli ebrei, anche loro vicini all'arabo come lingua, ma al tempo stesso vicini anche al mondo latino, che facevano questo lavoro di primo abbozzo di traduzione. In alcuni casi abbiamo anche testimonianza di ebrei che compirono da soli tutto il lavoro portando un'opera dall'arabo in latino, ma nella maggior parte dei casi facevano soltanto questa opera di intermediazione. A quel punto poi un pool di esperti, di studiosi, la metteva in un latino più buono e alla fine c'era anche qui colui che firmava la traduzione, cioè colui che dava la sistemazione definitiva. Ricordiamolo ai nostri ascoltatori, che può essere interessante, che il più grande, infaticabile traduttore del Medioevo latino di testi arabi era stato un italiano, Gerardo da Cremona, che viveva a Toledo in Spagna e che firmò una serie veramente impressionante di traduzioni scientifiche, e quindi ha permesso all'Occidente di appropriarsi di un patrimonio che altrimenti non avrebbe mai conosciuto. Professor Ventura, fino ad ora abbiamo parlato un po' di come è nata la scienza nel vecchio mondo arabo, ma quali sono i nomi degli scienziati che ricordiamo di più oggi, che ci hanno tramandato una cultura scientifica? Ma guardi, moltissimi nomi erano noti già nell'Europa latina, ne è testimonianza il fatto che quasi tutti i nomi di questi filosofi o scienziati hanno una versione latina, cioè una deformazione latina del loro nome. Noi abbiamo parlato prima di Avicenna e Averroè, chiaramente non si chiamavano così. Avicenna si chiamava Ibn Sina, Averroè si chiamava Ibn Rushd, e per questi nomi con i quali noi li conosciamo sono deformazioni europee dei loro nomi arabi originari, quindi erano già molto noti. La lista sarebbe molto lunga, però certo se ci fissiamo soprattutto su quel periodo formativo della grande costruzione della scienza islamica, alcuni nomi sembrano emergere un po' sugli altri. Non so, penso a Razi, che era conosciuto nell'Occidente latino col nome di Rhazes, e che è stato un poligrafo, uno scrittore di vari argomenti, è stato filosofo, è stato astrologo, è stato alchimista, ma che è noto soprattutto per la sua qualità di medico e di chirurgo, che ha scritto grandissimi trattati. Rasi è del X secolo, è morto circa la metà del X secolo, ha scritto grandissimi trattati di medicina e soprattutto è stato uno scienziato che si è molto impegnato anche nelle realizzazioni pratiche del suo campo. Il califfo di Baghdad, per esempio, lo prese come dirigente di un progetto ospedaliero importante che si faceva a Baghdad in quegli anni, e lui, incaricato dal califfo di scegliere il luogo e di progettare il grande ospedale che il califfo voleva costruire, fece tutta una serie di indagini sulla natura dell'aria, sulla qualità della bontà ecologica, diciamo, per individuare il luogo della grande città che potesse essere più adeguato per la costruzione di un sanatorio, di un ospedale, eccetera. E, le opere di Rasi, in gran parte tradotte in latino, più tardi naturalmente rispetto a quando lui le ha scritte, sono state dei classici della medicina per tutto il Medioevo. Ce ne sono alcune che ci rappresentano anche, per esempio, tutti gli strumenti chirurgici che lui disegnava nei suoi manoscritti. Ci fanno vedere, cioè, un mondo molto avanzato da questo punto di vista, quasi insospettato per molti aspetti, che ha formato intere generazioni di medici nel nostro Medioevo e che quindi poi hanno portato alla crescita della scienza medica. Mi vengono in mente altri due scienziati che sono poi Al-Khwarizmi e Al-Battani. Al-Khwarizmi, un matematico che poi è stato colui che pensiamo abbia inventato l'algebra, ma ci dicevamo prima che in realtà Al-Khwarizmi non ha inventato l'algebra, ma ha sistematizzato la matematica e quindi ha creato quella struttura che noi utilizziamo oggi. E in più Al-Battani, che era un astronomo, che rivedette tutti i risultati di Tolomeo. Sì, questi sono forse due tra i nomi più significativi, insomma, rimasti proprio che hanno impresso il suo nome proprio a lettere d'oro nella storia della scienza. Al-Khwarizmi è stato un grande matematico, ha riadattato, come diceva lei, la grande matematica indiana che lui aveva studiato. Non dobbiamo dimenticare anche un altro fatto: verso la fine dell'VIII secolo venne a Baghdad una delegazione di scienziati indiani. Allora c'era anche questa grande circolazione, come se fosse una missione di studio, no? Per fare una sorta di convegno, e che portò i risultati delle proprie ricerche per dialogare con gli arabi e per vedere di mettere in piedi, insomma, progetti anche comuni. Quindi Al-Khwarizmi si è potuto anche avvantaggiare della conoscenza che gli arabi avevano cominciato ad avere di questo patrimonio matematico degli indiani, che erano forse i più avanzati all'epoca nelle matematiche, e scrisse vari libri anche proprio parlando dell'India, sui numeri indiani per esempio, e che sono rimasti molto famosi. I suoi libri poi, Al-Khwarizmi, che è un nome un po' impronunciabile nelle nostre lingue, venne storpiato dagli autori latini in algoritmi, da cui deriva appunto la parola algoritmo. Ma forse la parola che più indica l'influsso di Al-Khwarizmi per la nostra matematica è algebra. Infatti in una delle parole di un titolo della sua opera più celebre, che fu scritta attorno all'820, contiene appunto questa parola Al-Jabr, che era un metodo col quale Al-Khwarizmi intendeva risolvere le equazioni di secondo grado, e descrivendo questo metodo parla di questa costrizione, letteralmente vorrebbe dire la parola Al-Jabr, che poi nel linguaggio, diciamo, della nostra matematica è diventata algebra ed è andata a definire un intero settore delle discipline matematiche, insomma. E una delle cose importanti che ha fatto Al-Khwarizmi, come tutte le matematiche arabe, è stato quello di in un certo senso di liberare la matematica dalla geometria. I greci avevano sempre tenuto molto, molto strette queste due cose, e questa interdipendenza, che era importante per certi aspetti, però impediva alla matematica di procedere oltre e andare in altre direzioni. E un contributo forse più originale appunto degli arabi non è stato tanto quello di inventarla l'algebra, perché come abbiamo detto veniva da lontano, ma appunto di renderla una scienza veramente indipendente da altre discipline e da permetterle quindi una maggiore flessibilità. Al-Battani, l'astronomo, invece, siamo nello stesso periodo, un po' dopo, siamo proprio a cavallo tra il IX e il X secolo. Al-Battani, beh, forse è il più grande astronomo di tutti i tempi, insomma, il suo libro fu tradotto in latino con il titolo di De Scientia Stellarum, la scienza delle stelle, ed è stato forse il più grande classico, assieme all'Almagesto di Tolomeo, greco, che ha segnato la storia dell'astronomia mondiale, diciamo. Era un libro ricco di tabelle, un libro molto importante. Fra l'altro Al-Battani è stato il primo, gli viene riconosciuto questo elemento di avere calcolato esattamente la lunghezza dell'anno, 365 giorni, 5 ore, non mi ricordo più adesso quanti minuti e quanti secondi. Soprattutto capì che la Terra attorno al Sole faceva un percorso ellittico e non esattamente circolare. Io sto dicendo solo le cose naturalmente più significative, ma il suo contributo è stato enorme. Fra l'altro è stato anche un matematico, non solo un astronomo, e il suo nome Albategnius in latino era talmente noto nel Medioevo che rappresentava l'autorità massima nel suo campo. È curioso notare fra l'altro che uno dei crateri lunari della Luna di oggi in suo onore è stato chiamato proprio Albategnius, per ricordare appunto questa grande figura della storia dell'astronomia che proprio si era occupato tanto di sole e di luna. Professor Ventura, le voglio fare un'ultima domanda prima dell'ultimo intervallo musicale. Forse una domanda molto semplice, ma è anche una domanda molto complessa perché richiederebbe molto tempo per rispondere. Ma come mai abbiamo dimenticato così rapidamente tutto questo patrimonio? Intende, gli occidentali hanno dimenticato questo comune, certo, sì, che l'Islam ha dato. Insomma, è abbastanza fisiologico che ciò succeda. La civiltà islamica ha avuto un suo periodo di splendore, è entrata in contatto con una civiltà che, come ripeto prima, usciva allora con una certa difficoltà dalla barbarie e ha contribuito in misura notevolissima. Noi abbiamo parlato ora della grande scienza, della filosofia, ma non dimentichiamo gli apporti straordinari che nella cultura materiale l'Islam ha dato all'Europa. Se oggi noi usiamo parole come caffè, camicia, divano, zenzero, carciofo, albicocca, eccetera, sono tutte parole di origine araba, arancio, tazza, zucchero, insomma, questo ci dà l'idea che il mondo islamico ha travasato verso l'Europa che nasceva allora una quantità straordinaria di linfa vitale che hanno permesso proprio all'Europa di crescere. Poi naturalmente c'è stato un conflitto di carattere ideologico. L'Europa ammirava moltissimo l'Islam come civiltà intellettuale, la disprezzava invece come civiltà religiosa. C'era questa barriera di fondamentale diffidenza e quindi siamo arrivati a una sorta di schizofrenia per cui tutto ciò che era islamico da un punto di vista religioso era diabolico, da respingere con la massima forza. E d'altra parte però tutto ciò che l'Islam aveva prodotto quanto a scienza e a quanto anche ad altre questioni della vita quotidiana, persino nel modo di abbigliarsi o di mangiare, veniva apprezzato perché era il fenomeno di una civiltà estremamente avanzata e quindi affascinante, che creava fascino. Il conflitto ideologico alla lunga ha portato ad una separazione fra i due mondi. Il mondo poi cristiano si è avviato con i propri passi verso altri sviluppi che il mondo islamico non ha avuto, proprio nei campi della scienza, della filosofia, eccetera, e a quel punto la divaricazione era ormai completa. È subentrata sempre di più una sorta di diffidenza che non era più limitata soltanto alle scienze religiose, ma anche alla cultura nel suo complesso. Già a partire dal 600-700 noi vediamo che la cultura europea, quando pensa all'Islam, nella migliore delle ipotesi pensa a un qualcosa di esotico, magari di buffo, di divertente, ma il più spesso, e oggi ne abbiamo forse gli esempi più evidenti, pensa all'Islam come a un fenomeno rozzo, aggressivo, arretrato, capace solo di distruggere e non di costruire. Professor Ventura, ci lasciamo con un brevissimo intervento musicale e poi torneremo in studio per le considerazioni finali. Siamo negli ultimi spezzoni di Caccia al Fotone. Professor Ventura, le voglio fare un'ultima domanda. Ovviamente non abbiamo esaurito tutto l'argomento perché veramente ci sarebbe da parlare ore e ore e ore su questo argomento. Si sentirebbe di consigliare qualche libro per coloro che vogliono approfondire questo argomento? Ma guardi, in italiano purtroppo forse il libro più bello, più esaurito, l'aveva fatto Feltrinelli negli anni 70, si chiamava Scienza e civiltà nell'Islam, di Nasser l'autore era. Se qualcuno ne trovasse copia nel mercato dell'usato è vivamente consigliato di prenderlo perché è diventato una rarità libraria. Esistono alcuni libri più recenti, ma non credo che abbiano un grandissimo valore. Penso che forse la cosa migliore sia quella di rifarsi a pubblicazioni straniere, ahimè, bisogna leggere l'inglese o il francese per poter trovare qualcosa di più adeguato. Anche opere molto buone non vengono in genere tradotte, lo sa, insomma, il livello della nostra editoria, ancora un po' provinciale, non sempre riesce, anche in un periodo in cui l'Islam tira molto in libreria, per cui vediamo che le pubblicazioni sono numerose, però la maggior parte di queste pubblicazioni, ahimè, ha una qualità piuttosto scadente. Professor Ventura, io la ringrazio per essere intervenuto in diretta a Cacciafotone. Saluto tutti i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Cacciafotone e di Radio Città Fujiko. Auguro sia a lei e ai nostri radioascoltatori una buona scienza a tutti e a sabato prossimo.